Noi oggi siamo qui perché in Emilia Romagna e soprattutto nella città di Bologna da mesi avanti è una situazione che non è più accettabile. Ci sono adesso 1000 studenti, 1000 matricole che hanno appena scoperto all'inizio del secondo semestre, dopo 6 mesi, che loro della borsa di studio non vedranno un soldo. Questi studenti, molti dei quali sono internazionali, molti sono iraniani, russi, adesso si trovano nella situazione che saranno costretti, e perché non se lo possono permettere, ad abbandonare Bologna, abbandonare lo studio, abbandonare la vita in questa città, e in molti casi a dover ritornare nel proprio paese, dove sono esposti a grossi pericoli. Cioè, le studentesse iraniane e russe sono venute a noi in lacrime a chiederci un supporto, un sostegno, in questa, però in un'università che non è molto democratica, il funzionamento dell'università è quasi monarchico, le decisioni massime sono del rettore. Ma noi perché protestiamo contro l'università? Faccio un passo indietro. Il fatto è che la nostra protesta è contro l'università di Bologna, contro la regione Emilia Romagna e anche contro il governo. Il governo, non è solo questo governo, ma è da 20 anni che i governi italiani stanziano dei soldi insufficienti per le università. La spesa dell'Italia per l'università è uguale all'1% del PIL, una delle più basse in Europa, e sicuramente non tiene in considerazione della situazione di profonde crisi a cui vanno incontro tante famiglie e tutto, mettendoci anche l'inflazione di mezzo. E gli investimenti sono chiaramente insufficienti. Per troppi anni, cioè per questi ultimi anni, si è fatto troppo affidamento sul PNR, che ormai ha gli sgoccioli. E noi ce l'abbiamo anche però con la regione, che per mesi ha negato questo problema e ha tergiversato, lasciando gli studenti sospesi in questo limbo, e poi si sono svegliati con questa doccia fredda dove si sono resi conto che non vedranno un soldo e non hanno mai neanche avuto il tempo per cercare altre alternative, perché in questi mesi si è lasciati sospesi con la possibilità di ricevere o meno la borsa. E noi abbiamo anche l'università di Bologna, perché l'unica università dell'Emilia Romagna, questa famosa regione che dovrebbe essere molto attenta al diritto allo studio, che non si sta preoccupando dei propri studenti, perché l'università di Modena, Reggio Emilia, l'università di Parma, l'università di Ferrara hanno deciso di stanziare i soldi necessari, di donarli ad ergo per coprire i propri studenti che sono risultati idonei alla borsa ma non beneficiari per mancanza di fondi. Adesso l'Unibo, che invece è l'unica, cioè un'università che ha 1 miliardo di euro di bilancio, non sta facendo lo sforzo, non se ne è neanche occupata finché noi studenti non abbiamo protestato, non abbiamo spinto per portare una mozione all'interno del senato accademico, e limosinando quasi uno spazio che non ci viene quasi mai concesso. L'università non se ne è mai preoccupata. In questo momento si sta discutendo all'interno del senato accademico, che c'è in questo momento, la mozione per dare a tutte le studentesse e gli studenti le borse di studio di cui hanno bisogno, spingendo l'università di Bologna a fare anche lei una donazione ad ergo.